Stai ascoltando fuori o Mario cose mai sentite? La cosa più orribile che abbia visto in vita mia. Dimmi un po', ragazzolo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno? Qui da Mario ce ne so 100. Oh, sì, va bene, ma questo è uno che ruba. Sempre 100. Onorevole Meloni, quando lei è stata l'ultima volta in Inghilterra? Non a Londra, eh? Non a Londra, nell'Inghilterra che ha votato per Brexit. Non lo so, sono stata a Londra molto spesso. Ultimamente sono stata a Dublino, sono stata in Scozia. Insomma, Dublino sono in stata Irlanda. In giro. Poi non ho la presunzione di rappresentare. Non ho la presunzione. Sì, Dublino. Le chiedo scusa. Sì, le chiedo scusa, non ho. Sì, la ragione, Scozia ragione, ha votato, per Remain. Non vi sentite orgogliosi di essere scozzesi? È una merda essere scozzesi! Siamo il peggio del peggio! La feccia di questa cazzo di terra! I più disgraziati, miserabili, servili, patetici avanzi che siano mai stati cagati nella civiltà! Ci sono quelli che odiano gli inglesi, io no! Sono solo delle mezze seghe! Just a perfect day. A ricetta del derby so i pippa al sugo. Prendete 11 pippe e 5 kg di sugo. Luigino Di Maio il cerichetto. Fico il moscio, ovviamente. E l'emergente Di Battista detto Dibba. Il gallo cedrone. Diciamo, ognuno ha trovato adesso il suo ruolo in commedia. La sua parte in commedia. Che cosa hanno in comune questi tre giovanotti? Che sono tre mezze pippe. Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Sono cristiana! Io sono Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Sono cristiana! Anche se sono cristiana, va bene uguale. Allora io adesso mi aspetto che il governo italiano faccia rispettare quelle regole che le organizzazioni non governative pensano di poter violare. E a norma di diritto internazionale questo significa che la Sea-Watch è una nave che deve essere sequestrata, che l'equipaggio deve essere arrestato, che gli immigrati che sono a bordo devono essere fatti sbarcare e rimpatriati immediatamente e che la nave deve essere affondata. Ma rifletti, mia cara, non si potrebbe farle un processo? Processo? Prima? Beh, da appena un processetto. Dunque, sei pronta per l'esecuzione? Esecuzione? Oh, ma dovrà esserci la sentenza! Esecuzione prima! Sentenza poi! Ma questo pare il mio! Tutti i pareri qui sono! Vostri, maestade! Qualche testa rotolerà per questo! Carla, I'm the captain of the Sea-Watch 3. Il tema di affondare la nave si lega a quello che le ho appena detto, cioè o la Sea-Watch è una nave battente bandiera tedesca e la Germania la riconosce e quindi ho un problema con la Germania che si è messa a fare il trasporto di immigrati a casa mia e quindi è un problema diplomatico, oppure la Germania mi dice che non riconosce la bandiera di quella nave, quindi tecnicamente la Sea-Watch 3 è una nave pirata e secondo le norme il diritto internazionale si fa sbarcare l'equipaggio, si fa sbarcare la gente e la nave si affonda perché questo si fa con le navi pirata. 15 uomini a bordo e una bottiglia di rum, voglia di vino e bordelli e terraferma per noi. 15 senza ritorno, diavoli persi nel blu. Il pirata Popò nella volta al sicuro schizza come un siluro, senti il Popò. Allora, guardi, io non sono fascista, l'antifascismo per me è stata una cosa molto particolare, l'ho vista un paio di giorni fa a Livorno. L'antifascismo per me è stata un sacco di gente che inneggia i martiri italiani delle foibe, gente che mi sputa in faccia come l'altro giorno a Livorno, gente che prende a calci. È solo quello l'antifascismo per lei? L'antifascismo l'ho conosciuto io, sì. Che cosa penso? Del fascismo, dell'antifascismo, delle guerre puniche, della guerra di indipendenza? No, guerre puniche non abbiamo ancora fatto. Parliamo di storia, ma mi candido a fare. Non è ammiranziano, mi sono rotta le palle, ve lo devo dire. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Questo è l'ombelico del mondo, l'ombelico del mondo, questo è l'ombelico del mondo, l'ombelico del mondo. È qui che si incontrano facce strane, di una bellezza un po' disarmante, pelle di ebano di un padre indigeno e occhi smeraldi come il diamante, facce meticce di razze nuove, come il millennio che sta iniziando, questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando! Io sono Rosetta, sono una donna, sono una nonna, sono una cristiana. Ogni giorno un pensiero unico. Ci potete togliere tutto? Ricatenimo. Ma solo quando non avremo più una cucciarella. Non avremo più TL. Saremo incapaci di chiedervi: hai mangiato? E quindi tutti sanno che sono contro un governo contro la volontà degli italiani. Perché questo è tipico del PD. Se non puoi ottenere una cosa perché non te la meriti, rubala. Rubala. Rubala. Il governo lo stanno rubando. Robin Hood e Little John va per la foresta ed ognun con l'altro ride e scherza come vuole. Son felici del successo delle loro gesta, urca urca ti rulerò, oggi splende il sole. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. Mamma mia, come do! Mi sento come Cappuccetto Rosso! Una favola! E chi se lo ha da qua? Io c'è mia residenza! E adesso un po' di silenzio, che il leone si è addormentato! Fratelli d'Italia contro Museo Egizio, terzo round. Licenziare il direttore è soltanto una fake news. Il partito della Meloni ingrana la retromarcia. Non ci sono problemi. Vi insegno a guidare. Quando il semaforo è rosso si fa così. Tac, gli imbocchi qua, gli rigiri qua, fateli così. Vada, fratelli, ho sfornato tutto, fratelli. Ho preso il muro, fratelli, te dico fermate, fratelli, ho preso il muro, fratelli. Salve ragazzi, anche voi avete qualche problema su Meloni perché è una pianta un po' particolare, cresce molto, è difficile capire a che distanza va messa, oppure se si pota o si leva il primo frutto come si fa sulle zucchine per farli crescere meglio, o quando c'è da smettere di annaffiarli perché altrimenti il melone si spazza, spazza. Scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia che a farle i complimenti ci vuole fantasia.